Riflessi d'oltretevere. Una buona domenica da Katia Caramelli. Oggi per il meglio di Riflessi d'oltretevere vi raccontiamo due storie, quella di padre Renato e quella di suor Cristina, che nella musica hanno trovato la via per accostarsi a Dio. È stato ribattezzato il cantautore di Dio, padre Renato D'Andrea, docente di teologia, predicatore, uno dei primi e più noti cantautori religiosi in Italia. Quando ferveva un poco la riforma liturgica e quindi anche il linguaggio nuovo per esprimere la fede, e avendo quella passione mi cimentai in questo, quasi per caso. Componevo delle canzoni con gli scout ad Avellino, con il gruppo lì, però senza mai pensare di poter pubblicare. Proprio ad Avellino, quelli dell'edizione paolina avevano ascoltato un canto e mi contattarono per chiedermi se avessi voluto pubblicarli. Non mi sembrava vero, così cominciò l'avventura. E poi da allora invece sono tanti i canti composti, anche tante le parrocchie in cui si cantano. Sì, tantissime. Da allora fino a oggi circa 200 canzoni ho pubblicato con le edizioni paoline, e unendo naturalmente a questa pubblicazione anche i recital che io ho fatto dappertutto, diciamo un po' in tutte le parti del mondo, come annunci. Io sono un frate predicatore e tante volte mi servo anche della chitarra e dei canti per annunciare il Vangelo, anche in ambienti dove è difficile fare un discorso diretto, diciamo, sul cristianesimo, su Cristo, sulla religione. Ecco, appunto, può aiutare la canzone ad evangelizzare soprattutto i giovani? Oh, moltissimo, moltissimo. Ancora oggi io lo faccio e vedo che è veramente efficace, perché il canto evidentemente coinvolge un poco di più, sottolinea dei concetti che io unisco sempre fra una canzone e l'altra per affrontare dei temi, soprattutto dei temi inerenti alle loro problematiche, insomma, no? E l'arte è stata sempre quella che ha espresso il divino in maniera straordinaria, perché esprime già l'umano in maniera straordinaria. Immaginarsi se non può esprimere il divino. E l'arte forse si era allontanata dai valori, e un poco perché anche per un pregiudizio da parte di un filone di teologia che aveva considerato qualcosa come dissacrante. Io difatti l'ho pagato un po' sulla mia pelle proprio all'inizio, quando cominciai a fare quei canti, passavo un poco per una persona stravagante. Mi sono dovuto fregiare del titolo di docente all'Angelicum per poter giustificare, altrimenti mi avrebbero preso un po' per matto. Feci addirittura una tesi di laurea per giustificare questo tipo di linguaggio, con l'incoraggiamento allora anche di Paolo VI, ricordo, che canticchiava qualche mia canzone. Quando mi incontrò mi disse: stai tranquillo, continua a farlo così. Però fu uno scandalo non indifferente anche questo, quindi c'era un poco di pregiudizio da ambo le parti. Canta l'opera, il gospel, il gregoriano, ha inciso diversi album di musica sacra e ha fatto numerosi concerti in tutta Italia. Da qualche anno porta avanti il progetto Frammenti di Luce per evangelizzare attraverso la musica. Lei è suor Cristina Alfano, che in questa intervista ci parla della sua vocazione. Negli anni della mia adolescenza, anche qualche anno dopo, non credevo, ero molto lontana da Dio. Come è avvenuta la conversione? Un disegno misterioso che soltanto Dio sa i come e i perché. Concretamente, nell'avventura della vita c'è stato un passaggio proprio di ricerca di senso. Ho iniziato a cercare, dopo un po' di anni, ciò che dava senso alla vita, perché avevo raggiunto una serie di obiettivi che credevo fossero quelli importanti, cioè quello di raggiungere il successo, la carriera, realizzare appunto questa mia idea di professione appunto come cantante lirica. Avevo tanti amici, viaggiavo, avevo tutto, però fondamentalmente mancava il senso, e allora ho iniziato a ricercare qualcosa che desse senso alla mia vita. Poi c'è stato proprio un incontro che io definisco un incontro d'amore, è come un innamorarsi di una persona, è la stessa cosa. Io mi sono innamorata di Gesù Cristo, e quindi mi ha dato la possibilità appunto di rivoluzionare la mia vita e di stravolgerla, tanto che sono diventata una consacrata, questo dopo un po' di anni di cammino. Quindi la professione di cantante lirica è diventata un dono a servizio dell'evangelizzazione, quindi è stato un ricercare come utilizzare questi strumenti che il Signore stesso mi aveva dato. Cos'è Frammenti di Luce? Un progetto di evangelizzazione attraverso mezzi artistici. Siamo circa 60 persone, siamo 4-5 menti pensanti, siamo 5 consacrati musicisti, che abbiamo appunto realizzato questo progetto che coinvolge laici, giovani della diocesi di Bari, dove appunto tutti i mezzi artistici sono messi a disposizione dell'evangelizzazione, quindi c'è un'orchestra, un coro, ballerini, voci recitanti, vengono proiettate delle immagini, tutto questo per realizzare quello che noi chiamiamo concerto meditazione. È una meditazione che dura circa un'ora, che serve per aiutare a scendere in profondità l'anima di chi ci ascolta. Ora c'è Don Willy Volonté, noi ci risentiamo domenica prossima. Più sacro che profano. Più sacro che profano. La sindrome dei panda, l'ha chiamata così in un editoriale del Corriere della Sera Massimo Franco. Patiscono così le comunità cristiane in Medio Oriente, in Turchia, in Iraq e in Egitto, destinati a morire di soffocamento o di dispersione in cerca di lavoro all'estero, oppure così iperprotette da non avere più capacità di espressione. Naturalmente la nostra Europa ha ben altro da fare, perché business is business, gli affari sono affari, soprattutto quando si tratta del colosso cinese corteggiato da tutti e al quale si concede tutto, anche quello di clonarci in una disattenzione grave per i diritti umani. Ma l'Europa dimentica della sua identità, è troppo occupata con la Corte dei diritti umani di Strasburgo a impedire che si esponga il crocifisso negli edifici pubblici, ma poi colpevolmente tace e permette il soffocamento delle comunità cristiane in Medio Oriente, che sono le più esposte a mantenere in lande di ululati solitari quei valori e quegli ideali di umanità su cui l'Europa è stata fondata. E così prima o poi si abbatterà su di noi la pena del contrappasso, che tradotto in linguaggio popolare sarebbe come dire chi è causa del suo male pianga se stesso. Ben ha fatto a dire papale papale, la citazione in questo caso è d'obbligo, Papa Benedetto XVI nel suo recente viaggio a Cipro, affermando che se non si pone mano a rimediare le tensioni politiche e religiose nel Medio Oriente, tutto si risolverà in un bagno di sangue. Non abbiamo ancora capito che sono anzitutto gli ideali umanamente alti a scongiurare le guerre e non i soldi, queste semmai le procurano.